unico sogno sei del mio cuor. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Amor, tornerò perché tuo è il mio cuor. Perché tu è il mio cuore.